24 mattino di Alessandro Milan. Le 7 e 21 minuti, eccoci qua cari ascoltatori nel nostro sondaggio. Vi dico subito, parliamo delle adozioni ai single e le aperture per una sentenza della Cassazione, la possibilità di fare adottare anche alle persone single. Che ne pensate? Sareste d'accordo? Bisognerebbe aprire in Italia questo? Votate su radio24.it. Ne parleremo alle 8:30. Siamo anche su Facebook con 24 mattino. Ed ora, come di consueto, i giornali in edicola. Fujitsu supervaluta il tuo vecchio server fino a 600 euro se passi a Primergy. Cambia server.it. Vi presenta In primo piano. In questo mercoledì 16 febbraio l'apertura è unanime. Processo per Berlusconi, questo è il Sole 24 Ore. Berlusconi a processo, vado avanti per il Corriere. Rubi, processo a Berlusconi per Repubblica. Tutti su questo i giornali aprono. Qualche titolo più curioso: dannato tra le donne, questo è Libero. Oppure il Fatto Quotidiano, la festa è finita, c'è un Berlusconi assorto con il volto tra le mani. Berlusconi non cade per il Giornale, mentre il Manifesto mette Berlusconi sexit strategy, giocando sulla parola sex. Insomma, avete capito, il rinvio a giudizio di Berlusconi che è stato fissato per il 6 aprile con il rito immediato è l'apertura di tutti i quotidiani. Ne parlerà anche Oscar Giannino alle ore 9. Io da cosa voglio partire però? Da questa notizia che trovate sul Sole 24 Ore a pagina 5, il decreto mille proroghe che oggi arriva con la fiducia al Senato probabilmente questa mattina, che prevede tante novità che Marco Mobili spiega molto bene. Ma c'è un dettaglio, c'è un elemento che sul Sole 24 Ore finisce in un corsivo e che invece sulla Stampa è sviluppato a mezza pagina, pagina 35. Io dico sempre, queste notizie ironicamente vi metteranno di buon umore, voi che state andando sul posto di lavoro, voi che affrontate la giornata con ottimismo, no? Questa volta non lo dico ironicamente, queste sono le notizie che fanno abbastanza imbestialire. Dalla Stampa lo leggo: gettoni, sanatorie, consiglieri, così i partiti si fanno un regalo. Succede nel decreto mille proroghe: sanatoria per i partiti che hanno presentato in ritardo la richiesta di rimborso elettorale per le regionali 2010. Colpo di spugna sulle multe alle liste per i manifesti abusivi nell'ultima campagna elettorale. Rinvio dei tagli a consigli e giunte comunali. Ripristino dei gettoni di presenza per i consiglieri di quartiere. Col decreto mille proroghe i partiti si fanno un bel regalo, racconta Giuseppe Salvaggiulo sulla Stampa. Il problema è questo. Allora, intanto i rimborsi di partiti. C'è qualche partito che, come al solito, sbaglia, presenta i documenti in ritardo, presentano anche i documenti in ritardo per chiedere rimborsi ai partiti. Non c'è problema. C'è il decreto mille proroghe che riapre i termini per presentare i documenti che non sono stati presentati in tempo. Per esempio è successo alla lista Insieme per Bresso, che così si era flippata, uso questo termine così molto giovane, 100.000 euro. Non c'è problema, riapriamo i termini per presentare i documenti. Vi siete sbagliati? Siete ancora in tempo. Oppure c'è il tradizionale, tutti gli anni accade, il tradizionale condono per le affissioni abusive. Sapete, in campagna elettorale si vedono manifesti ovunque abusivi, i comuni emettono le loro multe, ma arriva il decreto mille proroghe che fa un bel condono. Basta pagare 1.000 euro per ogni provincia nella quale ci sono dei manifesti abusivi e ops, tutto condonato. E i comuni, secondo i radicali, perdono così 100.000 euro di multe che avevano emesso. Ma tanto, arriva il decreto mille proroghe. Ancora, stop alla sforbiciata che era prevista con le prossime elezioni dei consiglieri. Per esempio Gianni Trovati lo scrive sul Sole: a Milano che va al voto in primavera avrebbero dovuto tagliare di 12 consiglieri comunali, uno a Roma. Niente, tutto prorogato con il decreto mille proroghe, non ci sarà alcun taglio. O ancora, dovevano tagliare nelle città fino a 250.000 euro i gettoni dei consigli di quartiere, in alcuni casi arrivano 1.000 euro al mese. Tutto condonato, cioè tutto prorogato. Il decreto mille proroghe rinvia tutto questo. Oh, Così i partiti si fanno un regalo: gettoni, sanatorie e consiglieri nel decreto mille proroghe, che sarà approvato in via definitiva oggi stesso. E allora, cari italiani, buon lavoro, andate col buon umore nei vostri posti di lavoro. Pubblicità e rientriamo. In primo piano. Eccoci qua, allora mi fa piacere, c'è chi mi scrive: caro Milan, non riuscirà a rovinarmi la giornata nonostante le notizie che vi ho dato dei partiti che si fanno dei gran regali col mille proroghe. Il nostro ascoltatore ci scrive: non riuscirai a rovinarmi la giornata perché tra poco vedrò la mia bellissima e amata collega sul posto di lavoro. E allora vedete che basta iniziare così col buon umore e anche certe notizie vengono metabolizzate. Allora, come detto, la scelta di tutti i quotidiani di aprire sulla presumibilmente era così, sul rinvio a giudizio di Silvio Berlusconi. Il premier verrà giudicato con rito immediato il 6 aprile, così ha deciso il giudice per le indagini preliminari, e la sensazione di un Berlusconi un po' asserragliato nel suo bunker. Ieri era in Sicilia, è rientrato disertando la conferenza stampa, anche se oggi ha annunciato la conferenza stampa con Tremonti, e quindi ci si affida un po' ai retroscena. La sensazione che Berlusconi voglia dire, almeno questo su Libero: da quei giudici non andrò mai, trovate voi il modo, così avrebbe detto ai suoi avvocati. Secondo questi magistrati, questo per Repubblica, dal prossimo mese dovrei andare ogni settimana in aula per i 4 processi. Vogliono trasformare l'Italia in un'aula di giustizia per impedirmi fisicamente di governare. È un colpo di Stato strisciante. E quindi mi devo affidare un po' ai commenti. Ne ho scelti 4-5, qualche stralcio di questi commentatori. Stefano Folli, a pagina 3 del Sole 24 Ore, nel suo consueto punto politico, scrive: un presidente del Consiglio rinviato a giudizio per reati gravissimi, concussione e induzione alla prostituzione minorile, è un caso unico nella storia recente delle democrazie occidentali, ma gli italiani dovranno convivere con questa novità almeno per qualche tempo. Berlusconi, come era prevedibile, non ha alcuna intenzione di dimettersi, anzi intende rovesciare l'offensiva contro la magistratura che vuole, parole di Berlusconi, rovesciare l'ordinamento democratico. E poi Folli parla del silenzio inquietante di Berlusconi, lo stesso di altri protagonisti dello psicodramma. Tace il Quirinale, tace per ora Umberto Bossi, il grande alleato che dovrà decidere prima o poi dove collocare la Lega. È questo che ci attende nelle prossime settimane: un presidente del Consiglio asserragliato nel bunker, impegnato nella battaglia finale con i magistrati, mentre l'Italia è su tutte le prime pagine dei giornali internazionali, e non per nobili ragioni? Così si chiede Stefano Folli. Sul Foglio invece Giuliano Ferrara, il direttore, che era nostro ospite ieri alle 8:20, nel titolo mette sempre questo ragazzino tredicenne a tutta pagina, che al Palasciarpa è stato fatto parlare, sotto il titolo Giustizia sommaria, e l'editoriale L'Italia di Piazzale Loreto e la tecnica di un colpo di Stato. Berlusconi e i suoi amici Mora, Fede, Minetti hanno invitato numerose belle ragazze, alcune delle quali non sono altolocate, a cene e feste private. Questo è tutto, non c'è reato, punto. Così scrive Ferrara. Si può considerare disordinata e non sobria una vita festaiola, il comportamento privato di ciascuno di noi è criticabile, ci si può esercitare a provare irritazione, nei casi più gravi morbosità moralistica, disgusto per una vita di cui nulla si conosce se non le circostanze esteriori, nella telefonata in questura errore blu per un uomo di Stato, e nelle serate di Arcore non c'è concussione, non c'è prostituzione, ma lo scandalo c'è, scrive Ferrara, è lo scandalo di un'aggressione giudiziaria che, a prescindere dalle intenzioni dirette dei suoi protagonisti, esprime un pregiudizio politico, antropologico e personale verso la figura di Berlusconi e tutto quel che lo concerne. Mentre per Maurizio Belpietro su Libero l'invito è: reagisca, presidente, magari convocando una manifestazione proprio per il 6 aprile, giorno dell'inizio del processo di Ruby, chiami a raccolta gli elettori per la battaglia definitiva tra chi vuole un paese normale e chi la Repubblica delle toghe. Una sola raccomandazione: almeno per un po' lasci stare le gonne, non è aria. Così Maurizio Belpietro su Libero. Mentre Ezio Mauro, direttore di Repubblica, in prima pagina: l'istinto populista di Berlusconi ora lo spingerà a incendiare il palazzo attaccando i magistrati, travolgendo le istituzioni fino alla distruzione del Tempio. La strada maestra a questo punto è una sola: il voto, col giudizio dei cittadini, i quali hanno definitivamente capito che la misura è ormai colma. Mentre in prima pagina del Fatto, Antonio Padellaro, il direttore, rilancia questa proposta a dire: se ci sarà un arrocco trincerandosi dentro Palazzo Chigi da parte di Berlusconi con la sua maggioranza gonfiata da deputati comprati un tanto al chilo, toccherà allora all'opposizione uscire alla scoperta con un gesto forte, drammatico, senza precedenti: le dimissioni in blocco di tutti i gruppi e di tutti i parlamentari dell'opposizione. Camera e Senato, già ridotti a enti inutili dall'inettitudine del governo, non potranno sopravvivere. È un gesto estremo. Vedremo. Sottoporrò questa domanda anche a Dario Franceschini, onorevole del Partito Democratico, ex segretario del Partito Democratico, sarà nostro ospite alle 8:20 per l'intervista. Questa proposta di Padellaro di dire le opposizioni facciano anche un gesto estremo, cioè abbandonino il Parlamento. Allora, questo per quel che riguarda i commenti. Troverete molto anche sul fatto che la Corte, le tre giudici, sono donne che dovranno giudicare il Presidente del Consiglio. Proprio trovate un commento su questo, secondo Famiglia Cristiana, ma anche secondo L'Unità, pagina 4, è una nemesi di Silvio. Il 6 aprile sarà giudicato da tre donne, proprio nel momento in cui le donne sono andate in piazza. Tra l'altro Giuseppe Guastella sul Corriere della Sera, pagina 5, racconta chi sono queste tre donne, tutte nate nel 62. Sono Carmen Delia, Orsola De Cristofaro e Giulia Turri. Trovate un profilo, i vari processi nei quali hanno giudicato, processi più importanti che li ha visti i protagonisti della Procura di Milano. Trovate anche sviluppi dell'inchiesta secondo Giuseppe D'Avanzo e Piero Colaprico in due pagine, ma anche secondo Il Secolo XIX ci sono dei verbali segreti che ora starebbero affiorando, almeno sui giornali, che sarebbero la prova che potrebbe inchiodare Berlusconi. Io e il Cavaliere quella sera in una stanza da soli. È il verbale di Giuseppe D'Avanzo e Piero Colaprico, l'articolo su Repubblica, il verbale finora segreto di Rubi, che avrebbe detto: capii che voleva sesso e io gli dissi in un'altra occasione che ero minorenne. Quindi secondo Repubblica Berlusconi, questa è la prova secondo la quale Berlusconi sapeva che Rubi era minorenne. Secondo Il Secolo XIX invece c'è un altro verbale, un verbale che dovrebbe essere acquisito a giorni e che andrebbe a integrare le carte già in possesso della Procura di Milano, e cioè il padre di Karima, il padre di Rubi, che avrebbe detto in un verbale: il premier sapeva che mia figlia era minorenne perché mia figlia gliel'aveva detto. Secondo Francesco Bonazzi sul Secolo XIX, pagina 3, questo è il nuovo, la novità che potrebbe essere fonte di guai per il Presidente del Consiglio in sede di processo. Intanto parla Emilio Fede a pagina 2 del giornale: il danno mediatico ormai è fatto, in questa vicenda ho maturato una tristissima convinzione, il processo, la condanna è già scritta dai media, sapete io cosa farò quando andrò in tribunale? Dirò ai magistrati: signori, cosa decidete? Non mi interessa. Decidete quel che vorrete, io mi avvalgo della facoltà di non rispondere, poi li saluterò così: vi ringrazio di avermi seguito, buona serata su Rete 4. Questo è Emilio Fede. Sono stato colpito perché davo fastidio. Il presidente Berlusconi, l'ho sentito una settimana fa, e al telefono mi ha fatto lui coraggio, mi ha detto: Emilio, sii forte della tua verità. L'ho ringraziato, gli ho risposto che gli voglio bene. Poi Fede dice: grazie a Dio mia moglie, una donna straordinaria al mio fianco, sa tutto quello che ho fatto, sa che non ho tradito la sua fiducia. Poi smentisce le voci di un prossimo avvicendamento alla direzione del TG4, non c'è nulla di vero, sono balle, dice Emilio Fede. E poi ecco, allora direttore, qual è la scaletta di oggi del TG4? Questo ieri sera all'intervista. A che punto mette la notizia del processo a Berlusconi? Dunque, dice Emilio Fede, apro con Lampedusa e gli immigrati, poi la visita del premier in Sicilia, poi Napolitano, segue dibattito interno a Future Libertà, poi la notizia del rito abbreviato, si dice abbreviato, no? Ah no, scusa, rito immediato, con la cronaca giudiziaria a volte faccio confusione. Questo è Emilio Fede oggi sul giornale a pagina 2. La politica, come immaginate, è un po' paralizzata da questa vicenda, almeno per un giorno. Certo, tiene banco ancora la decisione dei Bersani di aprire alla Lega. Ieri con questa intervista sulla Padania, oggi la Padania ci ritorna, l'offerta di Bersani, il patto sul federalismo. C'è Nichi Vendola, per esempio, che ha definito questo patto offerto da Bersani alla Lega un qualcosa di inaudito, una inaudita apertura. Così anche l'Italia dei Valori. C'è invece chi dice proviamoci, questo è anche tema di confronto, e chiederò anche questo all'onorevole Franceschini del Partito Democratico, cioè Partito Democratico che apre la Lega e ritorna all'idea di una santa alleanza, così è stata definita, tra tutte le forze pur di sfiduciare Silvio Berlusconi. Beh certo, nella politica forse fa anche notizia quello che ha fatto il sindaco, o quello che propone il sindaco di Racalmuto, Salvatore Petrotto, che io tra l'altro ebbe occasione di intervistare una volta, l'abbiamo invitato, non ricordo più in quale occasione, da allora ci riversa di comunicati stampa, tra cui anche questo che ora è finito a pagina 13 di Repubblica. Premio Sciascia a Berlusconi. Racalmuto, la città natale di Leonardo Sciascia. Ebbene, tutti sparano sulla Croce Rossa e allora io corro in suo aiuto. Il sindaco di Racalmuto, Salvatore Petrotto, ha deciso e vuole dare il premio Leonardo Sciascia a Silvio Berlusconi. Perché? Beh, il premio Leonardo Sciascia per una giustizia giusta. I familiari di Sciascia sono insorti di fronte a questa decisione del sindaco. Tra l'altro un sindaco che è stato eletto, è stato fino a poco fa il coordinatore provinciale ad Agrigento del Partito dell'Italia dei Valori, Di Pietro. È stato eletto con una lista civica appoggiata dal PD, ora pare rimasto folgorato dal transfuga Domenico Scilipoti, il famoso celebre Scilipoti, ed ora vuole dare un premio, il premio Sciascia per una giustizia giusta a Silvio Berlusconi. Anche questo succede in Italia. Racalmuto, provincia di Agrigento. Il traffico. In primo piano. Pensioni di invalidità revocata una su quattro. È un'intera pagina molto interessante che trovate sul Corriere della Sera, firma Enrico Marro. Il protagonista è il presidente dell'INPS Antonio Mastrapasqua, che spesso è anche ospite di Radio 24. E la notizia è questa, che sono aumentate le verifiche da parte dell'INPS sui falsi assistiti. E nel 2010 le revoche delle pensioni di invalidità civile hanno raggiunto il 23%, cioè 1 su 4 delle pensioni che sono state controllate sono state revocate. Nel 2009 quelle cancellate erano dell'11%, dunque una su 4 di pensioni di invalidità civile a fronte di controlli sono state revocate perché non erano legittime. L'anno scorso il programma prevedeva 100.000 controlli, ora si arriverà fino a 250.000 controlli. Entro il 2012 saranno 800.000 i pensionati di invalidità controllati su quasi 2,9 milioni in Italia. L'obiettivo, secondo il presidente dell'INPS, è eliminare le prestazioni ingiustificate ma anche fare opera di deterrenza. Allora, dove sono le regioni con il più alto tasso di revoca delle prestazioni? La Sardegna con il 53%, cioè una pensione di invalidità controllata, è stata convocata la persona che ne godeva, è stata revocata, una su due, più di una su due, il 53%. All'Umbria il 47% revocate, in Campania il 43% dei controlli hanno portato a una revoca, in Sicilia il 42%, in Calabria il 35%. A livello provinciale spicca Sassari, il 76% delle prestazioni controllate sono state cancellate, 3 su 4. A Cagliari il 64%, a Napoli il 55%, a Perugia il 53%, a Benevento il 52%. A Roma solo un quarto delle pratiche è stato definito, le cancellazioni sono il 26%. Per Milano i dati sono... 3%, pare davvero un crollo al ribasso, 3% a Milano. In ogni caso, questo lo trovate sul Corriere, pensioni di invalidità revocata una su quattro. Mentre un'altra notizia interessante che riguarda il mondo del lavoro, anche se un po' parallelo, un po' strano, lo trovate su Libero, a pagina 19. Il servizio civile diventa lavoro, laureati in coda per 430 euro. Sono sempre più le persone che per una paga di 433 euro e 18 centesimi decidono di fare un anno di servizio civile, che ormai è facoltativo. A Bologna, pensate, sono su 278 posti disponibili 1000 richieste. A Milano e Torino, centralini intasati. E molti ragazzi dicono, beh, almeno per un anno prendi lo stipendio, anche se di 433 euro al mese. E poi, ovviamente, spero siano anche animati dalla motivazione vera per cui uno sceglie di fare il servizio civile, cioè di dare una prestazione, insomma, in aiuto, in assistenza a persone e associazioni che ne hanno bisogno. Secondo l'ARCI è un boom senza precedenti da nord a sud per Libero. I giovani del servizio civile sono tanti, tantissimi, impegnati in progetti di volontariato, sono circa 10.000 ragazzi in tutta la penisola, ma sono sempre di più quelli che lo cercano, molti per motivazioni, molti anche appunto per avere questi 433,18 € al mese assicurati per 12 mesi. Trovate ancora molto del tema del nostro sondaggio sui giornali. La vicenda è quella delle adozioni ai single, una sentenza della Cassazione che peraltro è stata anche discussa, presentata forse anche un po' male, ora ne parleremo di più, però apre, o meglio riapre il dibattito. Non è che apre la possibilità di dare l'adozione ai single, perché in realtà questa sentenza della Cassazione ha detto no a una madre di Genova che voleva adottare da sola sua figlia. Questa madre che parla da Washington, ora dove si trova, alla stampa: la mamma single, mia figlia non è di serie B, però ha riaperto un tema, quello di adottare anche i single. In Italia è possibile, ma solo in casi particolari. Si vorrebbe invece, secondo molti, si dovrebbe aprire, come in molti paesi, come prevede la Convenzione di Strasburgo sui diritti dei minori, anche la possibilità di dare in adozione anche ai single. In prima pagina di Avvenire è l'editoriale di oggi, uscita maldestra, a firma Giuseppe Anzani. Tutto questo chiasso sulla sentenza della Cassazione in merito all'adozione di una bambina russa da parte di una donna italiana single, io non lo capisco, scrive Giuseppe Anzani. Forse mi sembra di capire anche troppo bene il retropensiero di chi ha sparato la notizia in modo capovolto, travisandola, come se la Corte di Cassazione avesse inaugurato una nuova e rivoluzionaria stagione giurisprudenziale. Detto che non è così, e soprattutto non lo farà, il legislatore non violerà la propria Costituzione. Insomma, il tema è aperto, c'è anche Repubblica che ci fa le tre pagine centrali, il papà single, che ne pensate? Secondo voi sarebbe giusto aprire anche alle adozioni ai single? Questo è il tema del nostro sondaggio, lo trovate su radio24.it e dovete lì votare. Ne parleremo poi alle 8.30. Salto a pie pari Sanremo, perché io non l'ho visto ieri, ho visto la disfatta del mio Milan contro il Tottenham. Dopodiché c'è la polemica, è quella del cachet di Benigni, c'è una polemica di cui non se ne può più. Ogni volta che c'è un artista che viene pagato c'è la polemica sul cachet. Voglio invece chiudere con quello che su Repubblica trovate a pagina 23, mi ha fatto sorridere tantissimo. Pedoni lenti, sbadati, maleducati, sul marciapiede si litiga come in auto. Federico Rampini da New York firma questo spassoso articolo a pagina 23. Ma sapete che c'è una vera e propria sindrome da aggressività che colpisce anche i pedoni? Cioè non solo quelli come voi che adesso siete chiusi in mezzo al traffico delle auto, anche i pedoni. E da cosa una sindrome d'aggressività? Da cosa si capisce se avete uno di questi sintomi? Attenzione, eh? Avete pensieri denigratori sugli altri pedoni. Oppure superate un pedone più lento e poi gli tagliate la strada per fargli un dispetto. O ancora fissate negli occhi in modo ostile uno che cammina piano. Oppure vi sentite in gara con gli altri pedoni, camminate più veloci. Oppure non date la precedenza quando sarebbe cortese farlo. O camminate in contromano sulla destra se tutti camminano a sinistra. Oppure strisciate o urtate volontariamente gli altri, così per fare un dispetto. O ancora mormorate qualcosa in segno di ostilità, perché magari un pedone va più piano di voi. O ancora bloccate il passaggio degli altri, insultate gli automobilisti. O infine immaginate atti violenti contro altri pedoni. Se avete uno di questi sintomi, sappiate che avete la sindrome da aggressività pedonale, cioè vi danno fastidio quelli che vi intralciano, camminano piano, magari stanno guardando il telefonino e voi vorreste fargli chissà cosa, avete dei pensieri assurdi. Non chiudo con la Gazzetta, l'ho detto, la disfatta del Milan, oggi la Gazzetta potete prenderla e la buttate via, il GR. 24 mattino. l'intervista. Eccoci qua, 8:21 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Il nostro ospite oggi è il capogruppo del Partito Democratico alla Camera, Dario Franceschini. Onorevole, buongiorno. Buongiorno a voi. Senta, perché lei ha chiesto le dimissioni di Berlusconi anche prima che ci sia il processo del 6 aprile? Ma guardi, in ogni paese del mondo, in ogni democrazia del mondo, anche in Italia in un altro tempo, sarebbe la cosa più normale del mondo. Di fronte a un processo di questo tipo, un premier, un presidente del Consiglio, nell'interesse del suo paese si fa da parte, va a difendersi come gli altri cittadini davanti al tribunale, davanti ai magistrati. Berlusconi proclama di essere innocente, perseguitato, vada a dimostrarlo davanti ai giudici. Così invece trascinerà l'immagine dell'Italia di fronte al mondo in un processo, porterà il suo ruolo oltre alla sua persona fisica in quell'aula di tribunale, esponendo l'Italia al ridicolo di fronte al mondo di un presidente del Consiglio processato per prostituzione minorile e concussione che non si dimette e vuole restare in carica. Insomma, dovrebbe farlo per il suo paese e per difendersi meglio, perché per lui è una persecuzione giudiziaria. Poi dice, se fosse alla fine innocente. Ma guardi, se è una persecuzione giudiziaria o se invece ha commesso dei reati, lo stabiliscono i magistrati, i tribunali, non lui stesso. Sarebbe come se un imputato di un reato risolvesse il problema, l'imputato di una rapina o di un furto o di un reato contro la pubblica amministrazione, proclamandosi innocente, e tutto finisce lì. È evidente che non è così. Del resto, purtroppo, è la storia di Berlusconi di questi 15 anni. Il Parlamento, la sua maggioranza, le leggi ad personam, gli abusi di ogni tipo. Lui si ritiene, avendo vinto le elezioni, superiore alla legge, superiore alla Costituzione, intoccabile. Ma il consenso popolare dà il mandato di guidare un paese, non dà la superiorità alla legge, alle norme, alla Costituzione. Senta, onorevole, l'appassiona il fatto che saranno tre donne a giudicare Berlusconi? Guardi, io conosco i magistrati, quando sono magistrati conta l'applicazione della legge, non l'essere uomo o donna. Parliamo invece di cose più strettamente politiche. Come giudica l'apertura del segretario del PD Bersani alla Lega con un'intervista ieri alla Padania? Cioè, facciamo un patto per il federalismo, per Vendola per esempio è una inaudita apertura al nemico, per lei? Guardi, il federalismo è una modifica delle regole che inciderà sulle future generazioni, è una di quelle riforme che si fanno nel tempo e quindi il fatto di essere giusto o sbagliata cambia la vita delle persone. Tant'è vero che in una legislatura in cui ci sono stati pochissimi spazi per un confronto positivo tra maggioranza e opposizione, noi sulla legge sul federalismo dall'inizio abbiamo lavorato per migliorarla, per contenere il danno rispetto alle proposte della Lega che era devastante, e ci siamo astenuti. Abbiamo votato contro l'ultimo decreto sul federalismo municipale perché è un decreto che va in direzione opposta rispetto a un federalismo vero. Abbiamo fatto una considerazione da tempo molto semplice ieri, ribadito il segretario, in un quadro politico diverso, senza l'anomalia di Berlusconi, con un Parlamento che torna a funzionare, perché loro, siccome la maggioranza, siccome non ha più i numeri, ha ridotto alla paralisi il Parlamento, diciamo, togliendo l'anomalia Berlusconi si può tornare ad un normale confronto tra maggioranza e opposizione, soprattutto sulle riforme più importanti. Ma qua, quello più che un confronto, quello di Bersani sembra proprio un ponte però lanciato alla Lega, cioè pur di trovare guardi i numeri. Che se non ci fossero tutte le anomalie e gli strappi a cui stiamo assistendo, che rendono impossibile un confronto normale, che peraltro Berlusconi non è mai interessato né col Parlamento né con l'opposizione, sarebbe assolutamente fisiologico che sulle riforme istituzionali, le riforme che durano nel tempo, maggioranza e opposizione trovano dei punti di contatto. Quindi, per lei che in Italia la riforma del sistema sanitario negli anni 70, lo statuto dei lavoratori, lascio perdere la Costituzione diversi anni prima, sono state fatte con un'intesa maggioranza-opposizione, quindi non ci sarebbe nulla di male. Quindi secondo lei l'anomalia è proprio una, Silvio Berlusconi? Beh, ma guardi che questa non è la mia opinione, l'opinione del PD, è l'opinione di tutto il mondo. I giornali stranieri, moderati, progressisti del mondo occidentale, dell'est, dell'Asia, del mondo islamico, rappresentano l'Italia come un paese incomprensibile, in cui c'è una specie di padrone assoluto che rifiuta addirittura di essere sottoposto al giudizio al giudizio per reati comuni. Non, l'anomalia è tutto il mondo che la indica. Un'ultima domanda, onorevole Franceschini, è questa. Sul Fatto Quotidiano oggi il direttore Padellaro rilancia questa proposta: in caso di arrocco di Berlusconi, le opposizioni valutino questa ipotesi, si dimettano in blocco e paralizzino così il Parlamento. È un'ipotesi estrema, ma è valutabile? No, non è valutabile. C'è già stato una volta nella nostra storia un momento in cui le opposizioni hanno abbandonato il Parlamento, l'Aventino, certo. È finita come è finita. E quindi penso che basti una volta. Basti una volta. La ringrazio, buona giornata, onorevole Franceschini. Grazie per essere stato con noi, il capogruppo del PD alla Camera, è stato anche segretario del Partito Democratico, Dario Franceschini, ospite nostro. E come dire, ci fermiamo per la pubblicità e poi parliamo nel nostro sondaggio, detto che di questo tema tornerà a parlarne Oscar Giannino alle 9, quindi del rinvio a giudizio di Silvio Berlusconi. E noi invece parliamo di adozioni ai single. C'è stata una sentenza della Cassazione che è stata peraltro un po' travisata, che però ha riaperto il dibattito su questo tema. Adottare anche, dare la possibilità di adozioni anche ai single, non solo alle coppie. Che ne pensate? Sareste d'accordo? Per ora prevalgono i sì, ma di poco. Nel nostro sondaggio, che vi invito a votare su radio24.it o chiamateci 800 24 00 24 tra poco. 24 mattino. Eccoci qua, le 8:33 minuti, parliamo allora di adozioni ai single. Questo è il tema del nostro sondaggio. Secondo voi aprireste alle adozioni anche ai single? Lo facciamo sull'onda di una sentenza della Cassazione che fa discutere, una sentenza che, lo dico subito, è stata anche travisata abbastanza dai giornali. Ma comunque, il nostro sondaggio. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Questo va precisato all'inizio, non è che la Cassazione, come qualcuno ha scritto ieri sui giornali, abbia aperto alle adozioni singole in Italia, anzi ha respinto la richiesta di una donna di Genova che voleva l'adozione piena della bimba, perché questo non è consentito, non c'è una legge in Italia al riguardo. La Cassazione però ha citato al termine di questa sentenza la Convenzione dei diritti dei minori di Strasburgo, dicendo: qualora se si volesse allargare da parte del Parlamento italiano anche l'adozione ai single, beh, sappiate che tutto ciò non va in alcun contrasto con la Convenzione di Strasburgo, tanto è vero che in tanti paesi già questo è una realtà. Per la verità va precisato che anche in Italia è una realtà l'adozione ai single, in casi però abbastanza rari, particolari. Comunque, questo è il tema che è stato rilanciato, il dibattito: adottare anche per i single. Che ne pensate? Per ora vi state spaccando esattamente a metà, il 51% per la verità è favorevole, 51-49, votate su radio24.it. Noi ne parliamo intanto con l'onorevole Paola Concia del Partito Democratico. Buongiorno onorevole. Buongiorno a lei. Buongiorno. Così come saluto il sottosegretario Carlo Giovanardi, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio che ha la delega sulla famiglia. Buongiorno e ben ritrovato. Io voglio però partire anche da una storia, io l'abbiamo rispolverata perché fu già nostra ospite all'epoca la signora Annalisa De Salvi, che saluto. Buongiorno signora. Buongiorno. Viene proposta dai giornali come nel 2005, credo, la prima donna single che ha ottenuto un'adozione. È così, di una figlia che si chiama? Natalia. E, è esattamente la prima donna in Italia. Intanto ci spieghi qualcosa, insomma, come ha accolto questa decisione della Cassazione, che ripeto è stata forse esagerata, però insomma ha rilanciato questo dibattito. Allora, la Cassazione, innanzitutto è dal 2006 che la Cassazione continua a dire che comunque una legge deve essere fatta, perciò non era una sorpresa. Purtroppo in Italia esiste di fatto questo problema, ed è inutile che la gente continui a dire no, i single non possono adottare perché un bambino ha bisogno di una famiglia. Innanzitutto il concetto di famiglia, se vanno a guardare nel vocabolario, la famiglia può essere composta anche da una persona. Secondo, in attesa i coniugi che sono in attesa non ci sono bambini. Questo non è vero, perché i coniugi molto spesso non vogliono bambini che hanno una certa età, non vogliono bambini di una certa nazione, non vogliono bambini, perché proviamo ad andare a chiedere. Questo però, mi scusi, che... signora Annalisa, è vero che ci sono tantissime famiglie composte da una persona, pensiamo anche solo nel caso normale in cui una delle due persone viene a mancare. Però, secondo lei, la soluzione ideale, come qualcuno dice, non è quella di un bambino che cresca con un padre e una madre? Ma sicuramente, ma quando questo non è possibile, non è possibile perché non c'è, anche perché oggi come oggi la famiglia sta diventando una famiglia sempre ristretta, non più formata da due persone. Quando questo non è possibile, chiediamo ad un bambino se preferisce stare in istituto, avere due genitori o un genitore. Mm. Questa è l'alternativa. No, questo è un punto di partenza interessante. Io vorrei dal sottosegretario Giovanardi farle questa domanda. Come ieri scriveva Massimo Gramellini sulla Stampa, e siamo in una società, in un mondo in cui anche un single può avere un figlio, magari non in Italia, ma ci sono tanti metodi, avere un figlio naturale, ci sono gli uteri in affitto, ci sono, quindi un single può procreare, però un single non può adottare, se non in casi particolari. Secondo lei, Giovanardi, non è un'anomalia? Beh, mi do una risposta, perché io vorrei raccontarvi le storie delle migliaia e migliaia di coppie italiane regolarmente sposate che hanno ottenuto l'idoneità dai tribunali e che sono in attesa per anni di adottare un bambino italiano che non ce ne sono da adottare, perché non ce ne sono bambini adottabili in Italia, dichiarati adottabili, perché c'è il problema dell'affido, c'è il problema di che ci sono ancora dei parenti, c'è il problema che hanno una madre, e ci sono migliaia e migliaia di coppie in attesa di adottare bambini all'estero. Quest'anno ce l'hanno fatti in 4.200, ma è sempre più difficile perché bambini adottabili in giro per il mondo ce ne sono sempre meno, perché i paesi stranieri sono sempre più rigorosi. La Romania per esempio ha chiuso e non dà i bambini in adozione, Haiti non siamo ancora riusciti a fargli aprire, la Cambogia ha chiuso e è sempre più selettiva. Quindi noi abbiamo una fila immensa di coppie regolarmente sposate che vogliono adottare un bambino e non ci riescono. Ed è solo una questione ideologica dire mettiamo in fila anche i single, nel momento in cui già oggi i nostri tribunali concedono alle persone che hanno acquistato, per esempio con l'affido, con i bambini bielorussi o altri casi del genere, una conoscenza di questo bambino per anni, e quindi c'è un rapporto particolare fra questa persona e questo bambino, di fare questa adozione speciale. Ma perché lei dice una questione ideologica mettere in fila che sì? Cioè non c'è adottare, non ci sono le coppie che sono in attesa in Italia, sono migliaia. Quindi lei dice queste coppie hanno la precedenza, cioè secondo lei è anche un principio importante da stabilire, che una coppia ha la precedenza rispetto a un singolo. Assolutamente, è un principio internazionale. Finalmente è stato superato il concetto che l'adozione è un atto che privilegia l'adulto che adotta, mentre il protagonista è il bambino, che è il diritto. Il bambino ad avere una famiglia, un padre, una madre, viene prima il diritto del bambino ad essere accolto in un contesto familiare dove c'è un padre e una madre. Non è prima il diritto dell'adulto che vuole un bambino. Poi sono d'accordo anch'io, se non ci fossero più coppie allora, la situazione attuale è esattamente rovescia. Abbiamo molte più coppie che vogliono adottare di bambini adottabili. Sentiamo, onorevole Paola Concia, è una posizione ideologica quella di voler spingere su questo tema dell'adozione single, dice Giovanardi, perché prima ci sono tante, un elenco di coppie che prima hanno diritto. Allora, intanto, come avete visto oggi, purtroppo questo tema è sparito dall'agenda. No, perché travolto da altro. Si parla di altro. Allora, questo governo fa il liberare con i fatti suoi, no? Che dice che Berlusconi, lo stile di vita Berlusconi, Berlusconi deve essere libero di avere il suo stile di vita, mentre gli altri cittadini, secondo questo governo e secondo Giovanardi, devono essere sottoposti alle forche caudine delle leggi moraliste di questo governo. Allora, faccio solo l'elenco, il concetto di famiglia. Giovanardi ha fatto la conferenza sulla famiglia in cui ha detto la famiglia è una sola, madre, padre, figlio, l'adozione appunto soltanto alle coppie, il testamento biologico, le cellule staminali, le persone omosessuali che possono continuare a essere picchiate per strada. Ok, questo beh, è questo, il questo da una parte, dall'altra Berlusconi. Questo nessuno l'ha mai detto che possono essere continuate a picchiare. 860 giorni che c'è una legge contro l'omofobia ferma in commissione giustizia, penso di sì, e poi adesso verrà votata e vabbè. Ma comunque parliamo di questo, è la doppia morale del governo. Allora io voglio dire questo, che cosa c'è? Intanto i bambini, i single nel nostro paese c'è la possibilità già i single di avere in affidamento, certo, bambini, ecco, hanno in affidamento bambini con gravi problemi. Allora questo governo mi deve spiegare perché una persona single può avere in affidamento un bambino con gravi problemi, ma un bambino con gravi problemi non c'ha più bisogno di più di più cure, di più genitori. Allora Giovannardi dice che è ideologico, e lo ai nostri ascoltatori, e io voglio chiedere ai nostri ascoltatori, non a Giovannardi, che cosa c'è di ideologico nel voler offrire una speranza ai tantissimi bambini. Non è vero quello che dice. Ma lui dice ideologico perché prima ci sono le coppie, la prima soddisfiamo allora, tutte guardi, le coppie. Nessuno chiede di dare la precedenza ai single, questo è ideologico. Nessuno ha mai detto che un single deve venire prima di una coppia. Ci sono gli psicologi che fanno le verifiche sulle coppie che devono adottare. Benissimo, vengono messi nell'elenco anche i single, anche i single. Però mi scusi, onorevole, decidono chi è più però onorevole Concia, onorevole Concia, le chiedo se il principio, però è un se questo ipotetico che le chiedo, se il principio è che per il bambino, per il bene del bambino, è meglio avere una mamma e un papà e quindi una coppia, se è vero questo principio, è anche vero che prima debbono venire tutte le coppie che si presentano per l'adozione che hanno un uomo e una donna? Ma scusi, gli psicologi avranno la capacità di capire se una coppia non è in grado e non ha le caratteristiche per adottare casomai un single o una single. Ah, perfetto. Ma che cosa c'è di ideologico nel dare? Noi siamo così provinciali. Giovanardi l'ha detto bene, ha detto ci sono i bambini italiani, la razza italiana, non è, i bambini italiani non sono adottabili. Allora, quante zone di guerra, quante zone di povertà ci sono nel mondo? E Giovanardi ci viene a raccontare che i bambini, nel mondo preferiamo farli morire di fame, di stenti. Vediamo, replichi invece che farli adottare da un uomo, una donna replichi a questo. Potergli dare amore, questo. No, ma è chiarissimo. Replichi a questo, Giovanardi, perché onorevole Concia dice chi l'ha detto, gli psicologi possono valutare, ha detto chiaramente che anche un single sia una situazione di adozione per il bambino migliore che una coppia, cioè siamo chiusi a pensare che debba per forza essere prima la coppia del single. Non è il governo, è il Parlamento che nel 2010, cioè 10 anni fa, ha fatto all'unanimità una legge, all'unanimità, che stabilisce che per adottare in Italia la coppia deve essere sposata, deve dare garanzia, un minimo di garanzia di stabilità e di continuità. Il Parlamento, non Giovanardi, all'unanimità, compreso il PD, relatrice era l'onorevole Serafini. Secondo, la stragrande maggioranza dei paesi stranieri che ci danno i bambini obbligano noi a presentarci con coppie regolarmente sposate. I cinesi, che da 2 anni hanno aperto e sono arrivate le prime decine di ragazzini cinesi, pretendono coppie regolarmente sposate con un reddito medio alto e vogliono anche che i genitori non siano obesi, perché se sono sovrappesi non danno il bambino. Haiti vuole una coppia regolarmente sposata da anni. Quindi le dice, noi ci dobbiamo rapportare anche alle regole dei paesi, che non è un self-service, non è che si va in Africa o in Asia a pigliare i bambini là. Ho detto prima che questi paesi, alcuni per me in maniera assurda, tipo la Romania, con cui abbiamo un conflitto aperto da anni, che non ci dà i bambini in adozione, neanche alle coppie regolarmente sposate. Magari arrivano persone a 18 anni qua con situazioni di difficoltà che ci comportano problemi, ma non ci danno i bambini. Perché? E c'è una tendenza internazionale, purtroppo dico io, a chiudere le adozioni, perché i bambini dichiarati adottabili, specialmente i bambini più piccoli, trovano soluzione nel loro paese. Allora, e l'adozione internazionale diventa residuale, sempre più difficile. Diamo le informazioni sul traffico, poi voglio sentire un paio di ascoltatori da cui ripartire per capire appunto che cosa ne pensa anche gli italiani su questo tema, adottare anche per i single. Il tema è molto interessante, come immaginavo. Io sono o blanco o nero, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Adozioni anche per i single, voglio sentire che ne pensa Maria Paola da Pisa, che ci ha chiamato all'800 24 0024. Maria Buongiorno. Paola, dica. paziente. Io diciamo, ai miei coetanei, io ho 37 anni, apparirò diciamo un po' retrograda nella mia idea, già mi sono confrontata con amici. Io penso che dobbiamo conservare un attimo quella che è la quello che la natura ci dice, cioè che i bambini devono avere un padre ed una madre. Basta con questo, questo tema, diciamo, lo potremo anche allargarlo al discorso dell'adozione con i gay, quindi sia gay che bambini che vengono adottati da single. Perché far partire questi bambini già svantaggiati? Non ci dimentichiamo che molti ragazzi nel loro percorso, molti ragazzi adottati nel loro percorso di vita spesso vanno alla ricerca delle origini della famiglia, quindi già si pongono un problema. Sì. Perché fargli porre anche il problema del perché sono, crescono in una famiglia che non è quella che la natura ci dice che deve essere. La natura, va bene, grazie Maria Paola. Lei evoca la natura, insomma la famiglia naturale, uomo e donna. Delenna da Roma, buongiorno. Pronto, è caduta la linea. Allora, vorrei chiedere alla nostra Annalisa De Salvi, dal quale siamo partiti, ricordo la prima donna single in Italia a ottenere un'adozione nel 2005, e ha sentito sia Carlo Giovanardi, l'onorevole Paola Concia, ha sentito l'ascoltatrice che parla, perché far partire in una situazione di, tra virgolette, svantaggio, o comunque in una situazione che non è naturale, mi perdoni questi aggettivi, insomma, che le giro. Sì, naturale, mi sembra un attimino. Naturale nel senso che per fare in genere, per fare un bimbo, insomma, ci vuole un uomo, una donna, questo la natura, sì. Però insomma, che ne pensa, che risponde l'ascoltatrice? No, ognuno ha la propria opinione. Io certo. Dico solo, provate a chiedere ad un bambino che sta in istituto se preferisce stare in istituto o avere una famiglia composta anche da una persona singola. E l'ha detto bene l'onorevole Giovanardi, l'interesse maggiore è l'interesse del bambino, del bambino. E allora, appunto, provate a chiedere ad un bambino che sta in istituto. Però perché lei la mette questa come alternativa? Cioè, è chiaro che messa così come alternativa tutti le diamo ragione, nel senso che piuttosto che stare abbandonato in un istituto è meglio anche essere affidato a una persona singola. Però lei, Giovanardi, ci sta dicendo che ci sono invece tantissime coppie che non riescono ad adottare e che vorrebbero adottare. Ma guardi, l'onorevole Giovanardi può dire quello che vuole. Io mi sono informata, mi sono appassionata a questa storia. Sì, sicuramente ci sono tantissime coppie che vogliono adottare, per carità. Nessuno dice che devono essere scavalcati dai single, però ci sono tantissime coppie. Questo glielo posso garantire, perché nel mio percorso, ci tengo a precisare che io ho fatto lo stesso percorso di una coppia regolarmente sposata. Sì. Con visite mediche, sì. Psicologi, tribunale, assistenti sociali, ho fatto lo stesso percorso, identico. Infatti il tribunale mi ha rilasciato, io sono equiparata ad una coppia regolarmente sposata. Sono venuta a conoscenza di tantissime cose, di coppie, appunto, come dicevo prima, che non volevano il bambino piccolo, che non volevano il bambino di una certa etnia, che non volevano il bambino. Vabbè, certo, poi sì, ci sono quelle adozioni tristemente a richiesta, no? Che lo vogliono, che vergogna, lo vogliono su misura. Questo non è lo spirito dell'adozione, questo non è spirito dell'adozione. Perché invece non si pensa a queste cose? Senta, la società come ha accolto? La società, io non so dove lei viva, se ce lo vuole dire. Se non... Sì, non c'è nessun problema. Benissimo. Io ho avuto il sostegno che non ho avuto dalle istituzioni, io l'ho avuto dalla gente comune, perché le istituzioni mi hanno sempre cercato, anche quando avevo l'adozione firmata, la sentenza di adozione firmata dal tribunale, la Corte Costituzionale consentiva questa cosa, hanno sempre fatto di tutto per bloccarmi, tant'è vero che mia figlia che doveva arrivare qua a 15 anni nel 2005 allora c'era il Ministero della Famiglia, l'onorevole Prestigiacomo. Sì. Che oggi fa un'intervista sulla stampa e dice che si può pensare di allargare la questione, però il principio è sempre meglio un uomo e una donna, cioè affidare una coppia. Le segnalo questa intervista ministro. Io guardi, ho avuto dei contatti, cioè io proprio ho parlato con la Prestigiacomo, sì. Sono stati insieme a lei, non esprimo commenti, comunque hanno fatto di tutto, addirittura la mia battaglia è durata praticamente 12 anni dall'inizio all'adozione, e quando la Corte Costituzionale ha sancito il diritto, sai cosa mi hanno detto? Che cosa? Mi hanno detto che io dovevo mettermi in coda alle persone che nel frattempo avevano fatto una domanda di adozione, cioè dopo di me. dopo di me, senza contare tutto il ma perché? Perché lei era battaglia. Perché lei era single? Cioè motivando questo? Motivando questo come? Perché lei era single? No, perché nonostante la Corte Costituzionale dicesse che sì, era appunto, giusto, come mai hanno motivato? Come mai? Perché l'hanno detto in quel momento e non prima. Comunque il motivo per cui mia figlia non è venuta in Italia non è comunque stato poi quello. La soluzione insomma si è trovata. Intanto abbiamo recuperato Delen da Roma, buongiorno. Buongiorno. Dica. Allora io sono a favore dell'adozione anche ai single perché vede io parlo in nome dei bambini abbandonati che cioè anche un solo genitore gli può dare tanta cosa, educazione, affetto, amore, cose che con i ragazzini non ce l'hanno proprio niente. Quindi lei dice, di dove viene lei? Se non, io vengo dal Brasile. Dal Brasile. Lei è a favore insomma dell'adozione per, anche per i single, cioè piuttosto appunto, grazie Delen, onorevole Conci, ho un minuto per chiudere, viene posta sempre così, cioè piuttosto che lasciarli in istituto è meglio una persona, però non è un modo di porlo un po' fuorviante, nel senso che pensiamo, cioè, l'onorevole Giovanardi ci ha prospettato un'altra realtà, non è che ci siano questi istituti dove sono tutti abbandonati e nessuno li vuole andare a prendere, ma il contrario, cioè ci sono tante coppie che li vogliono e non ce li danno. Ma allora intanto perché Giovanardi, visto che fanno le leggi col processo breve, leggi tuo impedimento, intanto le leggi si cambiano in un paese. Il fatto che lui abbia detto che 10 anni fa è stata approvata una legge, ciò non toglie che non si possano cambiare leggi. Numero uno. Numero due, Giovanardi perché non cambia gli accordi internazionali? Perché milioni di bambini, ma quale ascoltatore si crede la bufala che i bambini che non ci sono bambini adottanti quando milioni di bambini muoiono nel mondo, ma davvero? Ma crediamo veramente crediamo agli altri magari gli stati non li danno. Perché non cambia gli accordi internazionali Giovanardi con quei paesi? Perché Giovanardi non parla, come si diceva la signora Annalisa, del razzismo si chiama, delle coppie adottanti, ma queste sono storie che ce ne sono. Perché non le imputiamo a Giovanardi? No, perché non parla di quello? Ma io non sto dicendo che è colpa di Giovanardi. No, ma per carità, era una battuta. Appunto. No? E poi la signora che dice sì. Perché farli partire svantaggiati, e qual è lo svantaggio di un bambino che cresce in mezzo alla strada piuttosto che in un istituto e che viene adottato da una donna single come la signora Annalisa? Quale sarebbe? Allora, no, io su questa domanda devo chiudere, l'impegno è quello di ritornarci su questo tema perché come vedete è un tema molto sentito. Ringrazio tutti, così come Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi in redazione, Peter Bescapè in regia. Continuate a seguirci su Facebook 24 mattino, dai, diventate sempre più amici, spargete la voce, insomma, fate qualcosa. La linea Oscar Giannino.